voce. Patrizia Zappa Mulas legge I padri lontani di Marina Jarre. Quarta puntata. Siamo ormai in Italia, ho più di 10 anni. Quando ci raggiunge durante le vacanze, la mamma ci porta a fare brevi viaggi culturali. Conosce perfettamente l'Italia, la geografia, le città, le strade, i musei, gli idiomatismi delle varie regioni. A 80 anni compiuti, tutta curva per un attacco di artrosi, mi raggiunge sulla porta mentre sto uscendo di partenza per Pisa e mi raccomanda di non dimenticare di dare un saluto a Santa Maria della Spina, quel gioiellino. Durante una delle nostre escursioni istruttive, dunque, siamo a Genova e dopo la visita a un museo prendiamo il tram. Il tram va su e giù, beccheggia, mi viene la nausea, sto per vomitare, dobbiamo scendere. Mia madre furiosa mi insulta, Kripling, mi dice, la sua R rotolata, mi ferisce come un'arma, ma soprattutto mi colpisce la sensazione di essere restituita a me stessa nel mio schifo. Lei non mi vuole, non è lei che mi ha fatto così miserabile. La colpa è mia, sono un aborto di natura. Non pensavo che Sisi fosse bella o più bella di me. Mi dicevano che la mamma era bella e molto elegante. Di lei mi incantava, e lo ricordo tuttora, la chiarezza del viso. E quando eravamo separate, in quella chiarezza, la ripensavo, avevo un'idea geometrica della bellezza. La bellezza è regolarità. Una volta a scuola ci assegnano come compito di progettare un disegno per una piccola tovaglia e io disegno su un grande foglio a quadretti, adoro i quadretti e i quaderni di matematica, un quadrato con un mazzolino di fiori al centro e 4 mazzolini più piccoli, uno per ogni angolo. I colori rosa e verde. I fiori non sono forse rosa? E le foglie verdi? Mentre poi ricamo la tovaglietta, la trovo orribile, la più brutta della classe. Ma non sono capace di stabilirne il perché. A lungo mi piacquero soltanto le colonne doriche, le fratine e Corneille. Tuttavia, ricordo bella la mia bionda Fräulein Leni, bella senza confronti, più di chiunque altro, mentre mi leggeva fiabe, mi parlava. Una sera mi emoziono nel riudire, a un tratto, la sua dolcissima e segreta voce tedesca sussurrare frasi dal suono timido e tenero in un documentario trasmesso alla televisione con il commento di Ulrike Meinhof. Voce e lingua che rispondete a qualcuno, a qualcosa che ci richiama dentro di noi e non a chi sta accanto e ascolta. Belle forse le donne. Una bambina non è né bella né brutta, una bambina ha facilmente dei difetti. Io ho, per esempio, orifizi disgustosi, dai quali escono liquami puzzolenti. Che anche gli adulti probabilmente li abbiano, non mi importa, non ci penso mai, come non penso mai all'aggeggio ripugnante, un cilindro di vetro con tubi di gomma che sta appeso in bagno. Non voglio neppure guardarlo. Una volta, quando ero molto piccola, la mamma mi ha sgridato in modo spaventoso perché le mie mani, dopo il riposino pomeridiano, sapevano di pipì. La pipì è sporca. Bisogna farla, ma non toccarla. Non bisogna toccarsi. E io avevo fatto un po' di pulizia in quel buchino che ho tra le gambe. Mi piace fare pulizia in quel buchino. Com'è bella la mela rotonda, liscia, dall'odore agretto. Passando davanti al negozio di un fruttivendolo e vedendo una cassetta di mele rotonde, salde, perfette, senza buchi, mi viene un'improvvisa voglia folle di morderne una. Fermo la governante e la supplico di comprarmi una mela. Ho fame, dico, ci è proibito mangiare fuori dai pasti e lei non me la compra. In realtà nessuno è proprio bello, neppure gli adulti. Bella è la mela. E belli sono gli alberi della foresta quando è appena nevicato. E bella è la malvagia principessa dai capelli nerissimi sotto la falce argentata. Essa danza con il principe, vorticano da una parte all'altra del palcoscenico. Lui la solleva in alto con un gesto rapidissimo, leggero. Sono belli, lisci, senza buchi. Hanno calze che li coprono dal collo ai piedi. Preferisco la malvagia principessa dai capelli neri a quell'altra insipida biondina che il principe ha incontrato accanto al lago. Ci sono in me sussulti irragionevoli. Qualche volta ammiro i cattivi e vorrei essere come loro. Del resto anche mia madre ammira i cattivi, quelli che non si lasciano mettere nel sacco, quelli che sono più forti, quelli che sanno rispondere. I cattivi sono forti, perciò le loro bugie sono diverse dalle bugie dei vigliacchi. Mia madre ammira mia sorella quando questa riesce a mettermi nel sacco. Lo dice anche e ride. Tengo con cura le mie bambole, le pettino, le rivesto, spolvero i loro mobili, rifaccio i loro lettini, lavo piatti e pentole, le cullo per addormentarle e le passeggio nella loro carrozzina, una vera carrozzina con la capote. Zizi strappa i capelli alle sue e le porta in giro con le braccia e le gambe sradicate, non ha un servizio di piatti intero e prende a calci il pianoforte durante le lezioni. La mamma ride guardando le bambole di Zizi e ride ancora di più mentre racconta. Zizi è riuscita a rifilare le sue bambole rotte a sua sorella, mettendole in pensione da lei. Quella gliele aggiusta. E così ride mentre riferisce che mia sorella mi costringe la sera a raccontare storie finché non mi addormento. Zizi non dorme e dice: uffa, si è addormentata quella stupida. Mia madre riferisce agli altri quel che faccio. In realtà aggiusto volentieri bambole rotte e così lavo volentieri pentole e racconto volentieri storie. Non lo farei se non mi piacesse. Cerco di evitare il più possibile ciò che non mi piace. Il guaio è che non mi piace quasi nulla. Forse è proprio questo che disgusta mia madre. D'altronde le cose che mi piacciono di nascosto, non rientrano nelle regole e non posso parlarne. Cammino tra le file dei banchi coperti del mercato di Natale. Ci sono molte lampadine colorate. Sui banchi, in gran luce, stanno giocattoli di cartapesta, stoffe ricamate, cialde calde. Il loro profumo nell'aria gelida è grasso ed esteso. I venditori dietro i banchi parlano ad alta voce e ad alta voce risponde loro la gente che passa. Io non vorrei avere nessuno di quei giocattoli di cartapesta. Figuriamoci, e tantomeno mangiare le cialde calde. Però mi piace camminare tra questa gente vociante, allegra. Sono una di loro. Nessuno sa i miei vergognosi segreti e penseranno, vedendomi passare, che sto per comprare un burattino di legno e che ho appena mangiato un salamino fumante. Ci sono in me sussulti irragionevoli e io li percepisco con stupore. Certo, non sono istinti normali, ma tant'è, me li coltivo con cautela. L'importante è che nessuno sappia. Aspetto al circo con un segreto fremito che i clowns si prendano a calci in quel loro enorme culo morbido e finto, per poi allontanarsi ciondoloni lamentandosi con flebili voci artefatte. Immagino che quel sedere sia vero, immagino che non ci sia la corda che tira la fila dei cigni in fondo al palcoscenico. La mamma vanta l'acume di mia sorella che quella corda l'aveva vista subito. Ma io voglio che l'argenteo vestito della principessa sia proprio d'argento vero. Che dietro gli alberi della foresta magica ci siano altri alberi e dietro gli alberi castelli e nei castelli maghi e vorrei toccare le bianche braccia nude delle cavallerizze appena appoggiate sulla sella dei cavalli neri. Bianche braccia tornite, avrei voluto toccarli, anzi palparle, e così vorrei appoggiare la mano là dove vedo i seni iniziare a separarsi, proprio in quel solco. È l'anellino d'oro con la pietra azzurra nella botteguccia. Tutti i giorni lo guardavo e desideravo. Avevo persino pronto un piano per rubare il denaro necessario quando un bel giorno scomparve dalla vetrina. Non sempre riesco a nascondermi sotto il mio edificio di meriti. Lo costruisco con cura, ma ecco, come da un buco immondo salta fuori qualche difetto orribile e dico e faccio qualche cosa che non devo e rovino tutto. Eppure c'è in me una contentezza. Non sono proprio orgogliosa di quel mio difetto orribile, ma come dire, ci tengo. Poi mi pento. Ma per le conseguenze, non perché ho detto o fatto quella cosa. Non so perché, ma sento di avere anche ragione. Rivelo a mia madre perché mi volto sempre indietro durante le passeggiate, e quando vedo che incomincia ad arrabbiarsi, insisto. Lei potrebbe anche abbandonarci, e allora in che modo potremmo tornare a casa? Viene il medico, caccio fuori la lingua a fatica, ma mi sforzo di seguire tutto il cerimoniale fino al 33. Poi mi ricorico. Il medico scrive sul suo ricettario: mia madre è nervosa, ha fretta. Il medico chiede se per caso non ho portato un indumento che mi ha irritato la pelle, e io subito denuncio il pigiamino nuovo. Mia madre mi lancia delle occhiatacce, ma io voglio liberarmi del pigiamino che effettivamente mi fa prudere la pelle. Ecco che mi sono rovinata. Questa malattia non mi porterà alcun vantaggio. Del resto non è una malattia grave. Non ho mai malattie gravi. Ho per esempio il paratifo. Non riesco ad avere il tifo. Mancano dei pasticcini sul vassoio e io faccio la spia a Sisi, la quale nega con ancora i baffi di panna intorno alla bocca. Anche lei dice bugie, come tutti, ma siccome non si cura di dirle bene, è come se non le dicesse. La mamma deve punire Sisi e si accinge a farlo subito. La mamma è giusta e severa, chi sbaglia deve pagare. Mia sorella si lecca i baffi di panna e continua a negare. La mamma la prende per il braccio e la trascina urlante verso la porta. Andranno dal pasticcere con il resto delle paste a pesarle, e così la colpa di mia sorella sarà palese. A metà delle scale Sisi si fa venire le convulsioni e diventa viola. La mamma rinuncia a portarla dal pasticcere. La sera riferisce l'accaduto a nostro padre. Di mia sorella dice: poverina, è così golosa quella bestiola. E poi quelle crisi di rabbia. La bambina si sente veramente male. Di me dice: Miki ha denunciato sua sorella, è gelosa di lei, che vergogna. Davanti a me si allarga e si estende fino all'orizzonte il mare gelato nel suo moto ondoso. Così bianco e irto di avvallamenti agghiacciati, appare più invalicabile che d'estate, quando vi passano le navi, anche se mi raccontano che i finlandesi, in certi inverni molto freddi, sono giunti fino a Riga scivolando sul mare con le loro slitte. Sta immobile il mare, ma io so che ribolle là sotto, che vuole uscire, come la duna in primavera quando spacca la sua coltre di ghiaccio, e la notte la sento scorrere con rumore di tuono. Dentro di me ribolle un pensiero mentre mia madre dice: che vergogna! Ribolle gelido e verde. Me mi avrebbe punita. Più che un pensiero infatti è rapido e sottile come un taglio, è un immenso dilagare di rabbia e di impotenza, una macchia dai bordi ondeggianti che cerca di invadermi tutta. La devo tenere ferma dentro di me, ma è giunta ormai sino alla punta delle mie dita che rimboccano le coperte nel lettino della mia bambola guercia. Le è caduto un occhio all'interno della testa, il medico delle bambole non è più riuscito ad aggiustarlo. La tengo così e mi fa proprio schifo, ma la tengo lo stesso. Io non sarò come mia madre. In attesa risposta, mentre in silenzio rimbocco le coperte alla bambola guercia. Io non sarò come mia madre. Inattesa e contraddittoria con l'altra, che pure è già presente e consapevole, io sarò come mia madre. Pensieri che non posso quasi pensare, non stanno nemmeno nella mia testa, forse stanno rincantucciati in qualche mio buco sporco mentre rompo di colpo qualche cosa, pur cercando di essere buona e brava, più buona e brava di mia sorella, la quale se ne infischia di essere buona e brava. Nessuno mi darebbe retta se gli raccontassi che la mamma preferisce Zizi a me. Che vergogna, direbbero. La mamma ti dà tutto quello che dà a tua sorella. Non c'è cosa che io abbia avuto in meno di lei. Quando, fermi dietro la porta del salone, sentiamo frusciare la carta dei pacchetti che Mutti va disponendo sotto l'albero e l'odore degli aghi bruciacchiati da una candelina giunge sino a noi, misto a quello dei bruni biscotti speziati sulla piastra del forno in cucina, mi aspettano regali belli e ben scelti quanto quelli di mia sorella. Lei ha dei bei vestiti e anch'io li ho. Fino all'adolescenza i nostri vestiti saranno uguali. Quando mi ammalo, la mamma mi cura. Però, dal fondo d'uno dei miei buchi invisibili e sporchi, penso ogni tanto, uno di quei pensieri doppi e contrastanti, che anche se sono vigliacca e bugiarda, è vero, mia madre non dovrebbe riferirlo agli altri. Perché gli racconta sempre tutto di questi miei difetti agli altri? Ho 3 anni, racconta mia madre, e mi lamento sempre di un mal di pancia. Sono anche disappetente e rifilo fette di pane imburrato al nostro cagnolino, oppure prego la mamma di mandarle ai bambini in Africa che muoiono di fame. Lei mi porta dal nostro pediatra, che prescrive olio di vaselina. Dopo qualche cucchiaio guarisco. A mia madre, che gli chiede se ritiene possibile che così piccola mi fosse inventata tutto, il medico, tedesco e luterano, risponde che già i neonati mentono. Io ricordo abbastanza chiaramente di essere seduta ai piedi di un sofà sul quale la mia nonna paterna sta discorrendo con qualcuno di una ragazza morta di appendicite. Descrive i sintomi, la lunga noncuranza dei genitori, la fine rapida e inevitabile. Ricordo di essermi toccata la pancia perché avvertivo un dolorino mentre la nonna parlava. Non ricordo altro, come non rammento mie bugie particolari. Ricordo invece benissimo alcune storie che raccontai verso i miei 6-7 anni, nate dalle brevi menzogne di difesa che anche mia sorella e la cameriera dicevano. Le mie erano menzogne bellissime, elaborate, in cui quel che era vero e che io distinguevo perfettamente era il nocciolo intorno al quale disponevo la storia nei suoi dettagli. Qualche volta c'era un particolare della realtà, inessenziale a prima vista, che mi colpiva, e allora le mie storie incominciavano da quell'immagine, anche le mie storie interiori. Per esempio, lo scalone per il quale scendeva mia madre trascinando mia sorella urlante per il braccio aveva una curva ampissima, aperta, una curva che da allora innescò le mie fantasie di fuga. Sono bugiarda e colpevole. E gli incubi che ho la notte mi puniscono delle mie trasgressioni. Un incubo, soprattutto, breve, terribile, che mi accompagnò sino all'età adulta: il sogno della strega. Sognai la prima volta, mi pare nell'estate in cui compivo 7 anni, di trovarmi nella strada. Davanti a me passano 2 vecchie curve, la testa coperta da un fazzoletto. Sono tranquilla, sto facendo una passeggiata e sono sola. Appena è passata davanti a me, una delle 2 vecchie si volta e mi guarda. Il suo viso terribile è quello di una strega. Mi sveglio. L'incubo consiste soltanto nel subitaneo rivelarsi di quel volto che io so invincibile, contro il quale non posso nulla. L'ultima volta che sognai il sogno della strega, essa stessa mi liberò con le sue parole. Era un sogno di fuga. Fuggivamo in gruppo, un gruppo di adolescenti. I miei figli non comparivano nel sogno, ma nella realtà ero già sposata e madre. Il sogno è colorato d'un unico colore viola-nero. il colore di una malattia, una peste che appunto stiamo fuggendo, e dello stesso colore è la boscaglia che attraversiamo. Passando in mezzo a un villaggio di casupole sporche, vedo una donna grande e grossa apparire sulla soglia di una capanna. Ha il volto tumefatto, viola nero. Se mi tocca, anch'io mi ammalo e muoio. La donna mi guarda e io le dico: non ho paura di te, passerò lo stesso e non mi ammalerò. Allora lei si mette a ridere. Ride, franca e sonora, come se non fosse malata, e mi dice: certo, puoi passare, perché tu hai coraggio. Patrizia Zappa Mulas ha letto I padri lontani di Marina Jarre. A cura di Fabiana Carobolante e Lorenzo Pavolini, con Ornella Bellucci, Jacopo De Bertoldi e Chiara Valerio. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.